America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, insomma, la questione siriana continua naturalmente a dominare gran parte del dibattito politico di questi giorni, della giornata di ieri, e sicuramente lo dominerà nella giornata di oggi. Abbiamo qualche novità, abbiamo per esempio il senatore McCain che ha detto pubblicamente di voler appoggiare la richiesta del presidente Barack Obama, la richiesta di poter avere l'autorizzazione per attaccare la Siria, e ha incoraggiato tutti i suoi colleghi repubblicani, i suoi colleghi legislatori sia alla Camera che al Senato a fare lo stesso. Il presidente americano dunque comincia a raccogliere alcuni alleati. Il suo progetto di ottenere un voto favorevole al Senato e forse un voto trasversale con una maggioranza repubblicana e democratica alla Camera va avanti. La questione ormai è politica, la questione a questo punto sarà trasferita al viaggio di Barack Obama a San Pietroburgo, dove ci sarà il G20. Io stesso sto per partire al seguito del presidente, domani sarò a Stoccolma, dove ci sarà la prima tappa di Barack Obama in questo viaggio, che diventa cruciale dal punto di vista della politica estera, al punto che sicuramente al G20 l'agenda sarà dominata quasi al 100% dal negoziato sulla questione siriana. Ci sono state già delle polemiche in arrivo dalla Russia, polemiche per esempio sulle prove raccolte dagli americani, per i russi non sono sufficienti. Però io non vorrei dilungarmi troppo oggi sulla questione siriana, ne abbiamo parlato, se ne parla nella cronaca, non ci sono degli sviluppi davvero sensazionali. Vorrei invece parlarvi di un aspetto importante che riguarda la vita politica americana, e cioè le elezioni, perché ci sono delle elezioni per esempio per il sindaco di New York, ci sono delle elezioni per il seggio senatoriale vacante nel New Jersey, c'è una battaglia politica in corso. Good afternoon, my name is Anthony Weiner, Democratic candidate for mayor of the city of New York. I have said that other texts and photos were likely to come out, and okay? Today they have. You're right. As I've said in the past, these things that I did were wrong and hurtful to my wife and caused us to go through many challenges in our marriage that extended past my resignation from Congress. Anthony Weiner, candidato imbarazzante, recidivo nel suo vizietto di farsi foto delle parti, diciamo, intime per poi spedirle via internet a delle presunte ammiratrici o fidanzate, uomo sposato tra l'altro con un figlio. Bene, Anthony Weiner resta in lizza per l'appuntamento del 10 settembre, quando ci saranno le primarie democratiche appunto per il sindaco di New York. Ci sono quattro candidati principali, ci sono anche altre corse elettorali a New York, per esempio quella di controller, per la quale corre Elliot Spitzer, ex governatore dello Stato, anche lui costretto alle dimissioni per uno scandalo sessuale. Ecco, devo dire, mi viene una piccola riflessione, perché New York dimostra, come dire, di essere uno Stato molto avanzato, molto aperto, molto libertario, molto tollerante in termini di diritti, libertà civili, di uguaglianza, perché da una parte abbiamo Anthony Weiner, vi ho detto, con questo piccolo vizietto, dall'altra Spitzer che è stato colto in flagrante con una serie di prostitute, ma abbiamo anche Christine Quinn è forse il candidato favorito, e in questo momento lo speaker del Consiglio cittadino, è una donna lesbica che convive con la sua compagna, è molto aperta su quelli che sono i suoi orientamenti sessuali e potrebbe diventare il primo sindaco apertamente gay della città. Sottolineo apertamente, perché in realtà si dice che il sindaco Ed Koch fosse anche lui gay, anche se non apertamente. Gli altri candidati: Bill de Blasio, molto favorito italo-americano, c'è un testa a testa fra lui e Christine Quinn, e poi Bill Thompson, afro-americano, ex controller della città di New York, la poltrona per la quale sta concorrendo Spitzer. I'm Cory Booker. You ever hear my name? Oh. Cory Booker. I'm not sure if you've heard of me, but I'm the city councilman from the Central Ward, but now I'm running for mayor. Fellas, how y'all doing? Vi propongo questo documentario del 2002 che racconta la storia di Cory Booker. Cory Booker aveva allora 34 anni, cercava di diventare già allora sindaco di Newark, ma si scontrava contro Sharpie James, che poi vinse quelle elezioni devo dire, con una serie di colpi sotto la cintura. Questo documentario racconta le straordinarie scorrettezze della campagna di Sharpe James, che era al potere dal 1986 fino al 2006, quando poi è stato sconfitto finalmente da Booker. Il personaggio era il simbolo stesso della corruzione politica, del controllo di tutte quelle che sono le strutture della municipalità cittadina, è stato accusato di frode, è stato persino in prigione, eppure è riuscito sempre a sfangarla. Ecco, e dal 2006 che Cory Booker diventa sindaco di Newark e soprattutto comincia a diventare un personaggio nazionale. Ecco, io sono stato a New York a un fundraising event, una raccolta fondi per Cory Booker, ho chiacchierato anche con lui, dunque vi ripropongo una presa diretta con un fundraising a New York. Il fundraising era ospitato da Fred Eisman, che è un finanziere, e da Leo Cohen, che è un discografico, era il capo della Atlantic Records. Hey, hi Fred. How are you? Very well. How are you? Thank you. Ecco, questa è una chiacchierata che ho avuto proprio con Fred Eisman, vi dicevo, un finanziere, si occupa di private equity, e il tipico personaggio che poi ospita a casa sua un evento di questo genere per raccogliere magari 100, magari 150, 200 mila dollari per una serata in cui poi il candidato arriva, chiacchiera con le persone che sono a questo evento, a questo party, che non sono più di una trentina, di una quarantina, e dopodiché fa un breve discorso. L'atmosfera è la classica atmosfera del cocktail party. This is the guy been looking after me for the last 7 months of organizing my deal right here. Thank God. This guy. Ecco, Leo Cohen, il co-sponsor di questo party, l'ho visto proprio l'altro giorno, mi diceva: saremmo davvero fortunati se un giorno Cory Booker diventasse presidente degli Stati Uniti d'America. Vi dicevo, Leo Cohen è un grosso personaggio nel mondo della musica, è stato il capo dell'Atlantic Record, adesso sta cercando di organizzare un'altra attività imprenditoriale. E poi finalmente arriva a un certo punto Cory Booker. So how long did the trip from New Jersey to here? Were you here already? I was here already. We had an event right before this one. Cominciamo il nostro chit chat. Insomma, quanto ci hai messo a venire dal New Jersey? Ma in realtà non ci ho messo niente, perché ero già a New York a partecipare a un altro fundraising, mi dice Cory Booker. Ne ha fatti 3 o 4 nel giro di una giornata, perché nel momento in cui si viene, ci si muove e si riempie il calendario, è meglio ottimizzare il tutto. Parliamo dei problemi americani, parliamo soprattutto di questioni economiche, della necessità di rilanciare ancora di più di quanto non si sia fatto la ripresa dell'economia americana, puntando soprattutto sul lavoro. Bene, non so se Cory Booker diventerà presidente degli Stati Uniti, come auspica ovviamente Leo Cohen, ma so quasi con certezza che sarà il prossimo senatore del New Jersey. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, ma soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho parlato di Cory Booker, sindaco di Newark. Secondo il mio pronostico sarà il prossimo senatore del New Jersey, e dunque restiamo in New Jersey con questa canzone di uno dei suoi massimi ambasciatori, e visto che si parla di corsa elettorale, di Bruce Springsteen, Born to Run, nati per correre. Run from cages on highway, man from wheel, human checker and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back, it's a death trap, it's a suicide rap. Da New York è tutto, Mario Rodero vi saluta, vi dà appuntamento a domani e ai prossimi giorni, da Stoccolma e da San Pietroburgo, al seguito del presidente Obama. Goodbye and get going!